per curiosità, se no non me ne sarei accorto. Vai una M, il pacchetto. Sì, la M. La M, sì. E vedi, la faccio, la faccio. Vedi, adesso va a fare. Ma vedo la M. Come vedi? Oh, come vedi la briaccia? Sono io la M.